amici, peggio dei nemici, che masticavano di l'acqua luce. E mi levaro a speranza, e m'asciugaro a fonte, e m'asciugaro a fonte. Quanto ancora stesilio, e quanto gioia l'assai. Qua restavo sopra me terra, un tempo non rubavo niente. Ti duni i miei occhi, tu sola li viriste velate di lacrime persa le lacrime persa le occhi. Sogno un umbra mezzo al lumere, sogno pioggia nel deserto, e tu il deserto mi scanta un senso. Perché sopra i duni, perché sopra i duni mi persi.